Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, cari gastronauti, e soprattutto a coloro che amano i cocktail, a coloro che magari passano delle ore anche alla sera in un bar di un hotel oppure in un locale, magari facendosi servire ormai dei gustosissimi cocktail fantasiosi, sempre più fantasiosi. Ebbene, si è passati da un'epoca dai barman d'hotel, quelli che erano, che sono i confessori di molti clienti, quelli che fino alle 3 di notte magari rimangono con l'ultimo cliente a farsi raccontare un po' o gioie o dolori. Insomma, questo è sempre stato il ruolo dei barman d'hotel, però oggi c'è una generazione importante di nuove scuole, diverse scuole di cocktail, e noi andremo proprio a scoprire questo mondo, aiutati anche da un giornalista che abbiamo qui con noi come ospite, Stefano Ninčević, giornalista di Bar Giornale, appunto del gruppo 24 Ore, grande esperto del settore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Bene, io direi di cominciare questo giro nel mondo dei cocktail in questi bar proprio da un bar di un hotel, di un famosissimo hotel, dall'hotel Hustler di Roma, dove da 37 anni Luigino, al secolo Luigino Berardi, serve cocktail. Buongiorno Berardi. Buongiorno a voi. Quante ne ha sentite lei dai suoi clienti mentre le preparava un cocktail? Tante storie, tanti aneddoti. Ecco, ma c'è magari un aneddoto particolare legato a un cocktail che poi lei ha creato, o magari ad un personaggio? No, più di qualche cocktail, devo dire. Anche io ho in mente un ricordo e una grande emozione di uno dei personaggi più importanti del mondo, dove io le ho servito il Bellini, questo famosissimo cocktail a base di pesca, ma naturalmente con altri ingredienti, e lei dichiarò che al nostro proprietario, siccome aveva anche 12 ospiti, che ha bevuto il miglior Bellini del mondo. Ma chi era questo personaggio? Se lo dica a questo punto, non ci faccia morire così di ansia per saperlo. La principessa Lady Diane. Ah, quindi amava il Bellini, la principessa Lady Diane. Esatto. Nel nostro settimo piano, dove c'è una terrazza panoramica che domina tutta la città, lei aveva 12 ospiti con sé e noi preparammo questo Bellini, e lei confidò addirittura al nostro proprietario che aveva bevuto il miglior Bellini del mondo, se non che io nel servire lei ci incrociamo con lo sguardo e ricordo questa grande emozione che aveva, a parte la sua bellezza e il suo fascino, ma mi regalò un sorriso che conservo ancora oggi con me. Ma lei non le ha dedicato poi un cocktail alla DDA? Non le ha dedicato un cocktail? Ma io ne ho fatti diversi di cocktail, ricordo per esempio il grande successo che ancora oggi, che è una nostra punta di diamante, è quello fatto a base di succo di melograsso fresco spremuto con un po' di vodka e dello champagne. Bene. Io la ringrazio Luigino di questo bellissimo ricordo, che così molti si segneranno, appunto, ricorderanno questo Bellini, e lei soprattutto lo ricorderà per sempre. Grazie, la ringrazio. Grazie a presto. Arrivederci. Bene, io devo ricordare, diciamo, anche tra i baristi, i barman famosissimi, anche Antonio Di Franco dell'hotel di Cortina, dove mi sembra che lavori da ben 40 anni addirittura, questo barman che ha dedicato tantissimi cocktail a giornalisti, e così abbiamo i cocktail che si chiamano Mixer, si chiamano Libero, si chiamano un po' Elisir, si chiamano Solferino, quindi tutti dedicati appunto a dei giornalisti, da cui è nato anche un libro. Quindi il Antonio Di Franco, appunto, del Hotel della Poste di Cortina, e rientra un po' in questa linea appunto del nostro Luigino. Sono barman che ormai forse non esistono più. Ninčević, esistono ancora questi barman d'albergo con questa lunga tradizione di confessori? Ma esistono e come? Esistono nel senso che rimangono delle figure non solo di confessori, ma addirittura di psicologi, sono disposti appunto a stare a ascoltare, servire il cliente per tutta la notte, l'ospite e trattarlo con i guanti. Ecco, il servizio in hotelleria si distingue dal servizio in un classico cocktail bar proprio da questo, dal modo di fare, no? Un servizio in guanti bianchi. E questa è una delle peculiarità. Ecco, però ora diciamo che questo mondo è completamente cambiato. È cambiato, sì, è cambiato, però devo dire che le nuove generazioni stanno cercando di fare un recupero non soltanto a livello della qualità del drink, del cocktail servito, ma anche di tutto quello che riguarda appunto la storicità dell'accoglienza, così. Ecco, ci sono diverse scuole di pensiero, mi sembra che siano ormai tante, tante e veramente molto, molto, molto interessanti, ma io direi a un punto di cominciare a raccontare queste scuole di pensiero. Allora io vorrei cominciare da Chiara Beretta del Rita Cocktail Bar di Milano. Buongiorno, Chiara Beretta. Ecco, Buongiorno a voi. allora Stefano, a quale movimento appartiene Chiara Beretta? Beh, Chiara Beretta intanto è molto giovane, però appartiene appunto a quel filone che individuavamo prima, dei giovani che vanno alla ricerca di ricette storiche, di locali che hanno comunque un cotè importante, un cotè che richiama ai valori del passato, dei pionieri della miscelazione. All'inizio di tutto, più o meno all'inizio di tutto, c'era questo format di locale che si chiamava Speakeasy, cioè il locale del periodo proibizionismo. Siamo tra il 1919 e il 1933. Chiara, come mai si rifà a questo periodo? Ma allora, in realtà io lavoro in un locale in realtà molto moderno, comunque che è 10 anni che lavora su Milano e quindi non lavoriamo secondo il modello Speakeasy. Però io negli ultimi anni sono andata abbastanza in giro all'estero alla ricerca un po' di questi locali che si rifanno invece al modello di proibizionismo, ne ho visitati tanti ed è una cosa che comunque mi ha sempre affascinato. E sono appunto questi locali che secondo una sorta di gioco ormai cercano di riprendere questo modello per cui entrare in questo locale è quasi una sfida, bisogna a volte trovare una parola d'ordine, bisogna cercare un indirizzo preciso perché sono entrate nascoste, magari si entra da altri luoghi che non sono esattamente un bar. E in giro per il mondo ce ne sono tantissimi, purtroppo la gente non li conosce ancora benissimo. Però sono questi, secondo me, molto, molto divertenti e soprattutto dove si lavora di solito a un livello veramente alto. Ci dà qualche esempio di qualche cocktail, appunto, che lei ha preparato, che prepara? Legato. Sì. Ma questo è un periodo in cui sono tornati in voga i classici della miscelazione, quindi tutti quei drink che riprendono magari le lavorazioni sui prodotti singoli, sul whisky, sul gin e sul rum. Inizio secolo scorso o fine 800, quindi i vari Old Fashioned, Sazerac e tutti i primi Martini, insomma, sono tornati molto, molto in voga. Ma tra l'altro è molto divertente perché quest'estate ho fatto un'intervista a Antonio Di Franco, che ho citato prima, dell'Hotel Poste di Cortina, e lui mi diceva, gli ho chiesto cosa ne pensava di questa nuova generazione appunto diciamo, di barman. Lui dice, usano troppo analcolici, cioè bisogna tornare invece al vero mondo del cocktail, che è quello appunto molto, molto alcolico. Lei cosa ne pensa? Ma dipende dalle situazioni, insomma, il nostro lavoro più che altro è capire cosa sta cercando il cliente, per cui c'è il cocktail giusto per la persona giusta, insomma, c'è chi è pronto e apprezza di più cose un pochino più strong, e chi invece ne preferisce altro, quindi secondo me oggi si riesce a lavorare bene un po' su tutte e due le cose. Sul drink magari un po' impegnativo che con i drink cosiddetti da donna che comunque continuano a funzionare benissimo e vanno benissimo, insomma. Ecco, lei è una mosca bianca nel mondo dei barman come donna oppure è molto diffuso ormai, diciamo, questo mestiere tra le donne? Ma no, non penso che sia molto diffuso, anzi, sicuramente donne ce ne sono, cioè anche molto brave. però beh, penso che sicuramente siamo una minoranza. Ecco, volevo chiedere a Stefano. Stefano, ma in Italia sono molte le donne barman, anche brave, però diciamo di un certo livello, oppure è un mestiere, come diceva Chiara Beretta, che ancora insomma non è che è molto seguito dal genere femminile? Beh, l'ambiente, devo dire, è ancora forse fin troppo macio. Certo, le donne hanno dimostrato tante qualità, non soltanto in quello che è l'aspetto magari estetico del drink, ma proprio nella composizione di miscele adatte per vari tipi di persone. Le chiamano addirittura miscele sartoriali. La cosa interessante delle bartender è appunto il fatto di saper cucire sul cliente un cocktail proprio su misura, come se fossero delle sarte, come se fosse una semplice tailor made, insomma, alta sartoria tailor made. Ma allora hai usato la parola bartender, vogliamo spiegare al nostro pubblico, perché non tutti sanno cosa significa questa parola? Sì, a volte è un mio difetto, nel senso che essendo quasi quasi dall'altra parte del banco mi sento molto più del settore che fuori dal settore. Il termine bartender è un termine forse più appropriato per definire chi sta dietro la barra, chi conduce i giochi, chi è il vero e proprio manager della situazione, quindi chi sa condurre l'ospite in un'esperienza particolare, diversa, interessante. Questo è il bartender. Si differenzia dal barman? In realtà no, è semplicemente una questione etimologica. Diciamo che nei paesi anglosassoni bartender è sicuramente il termine più diffuso, e i paesi anglosassoni sono diciamo i paesi dove è nata la cultura del cocktail. Chiara, ci dice qualche nome di qualche locale in giro per il mondo, così, che è un po' il modello appunto di quello che lei prima ci ha delineato? Ma i più famosi e suggestivi diciamo che nascono, sono New York, per cui il primo è il Milk and Donuts. E adesso il più famoso è forse il PDT, che si chiama Please Don't Tell, dal quale si entra attraverso una cabina del telefono posizionata in un negozio di hot dog, per cui, ed è forse l'entrata più suggestiva. C'è il Gioies Olle, un locale con tutti dei tendoni davanti alle vetrine, una chiromante che accoglie i clienti. Poi, non so, a Parigi c'è il Candelaria, dal quale si accede a un tapas bar. A Roma abbiamo il Jerry Thomas, che Bene. È una porticina in un vicoletto del centro storico. Bene, gli indirizzi sono già tanti dove andare. Grazie a Chiara Berette. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di cocktail, di locali per cocktail, ma abbiamo sentito esistono diverse e tante scuole di pensiero. Bene, ora abbiamo con noi non solo un grandissimo esperto, ma abbiamo anche uno scrittore di tantissimi libri sull'argomento. Buongiorno a Dario Comini di Nottingham Forest di Milano, appunto un locale famosissimo di Milano. Ebbene, Comini, diciamo che nella hit parade dei barman internazionali ai primissimi posti, quindi abbiamo per così dire un fuoriclasse. Ma soprattutto la cosa che mi intriga molto, visto che anche recentemente ho partecipato a un convegno sulla cucina molecolare, è appunto di essere considerato un barman che prepara cocktail molecolari. E allora la prima domanda che faccio, e mi sembra anche scontata, a Dario Comini è questa: com'è arrivata, diciamo, la tecnica molecolare? Come arriva la tecnica molecolare nel mondo dei cocktail, Comini? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, signor Paolini, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per le sue belle parole, fin troppo gentile. Dovuto per dai fatti, quindi non è che mi sia inventato niente. Io lavo i bicchieri al Nottingham Forest, mi piace dire questo. Ah, bella, bellissima sta battuta. Ma le lava appunto con qualcosa di molecolare? Con le tecniche molecolari, al massimo dell'avanguardia per l'igiene. Ma usa l'azoto liquido? No, usiamo ghiaccio secco che dà maggiori risultati. Dunque, lei mi chiedeva per come è arrivata il molecolare nella mia vita. Sì. È arrivato inaspettatamente, è arrivato poco per volta. Io mi sono accorto verso la fine degli anni 90 che il mondo del bar era abbastanza piatto. Bisognava attingere dalla cucina esattamente come fanno gli chef, che prendono da altre arti, dalla pittura, dalla musica e via dicendo. E io ho visto la cucina come un'arte e ho cercato di prendere ispirazione dalle loro tecniche per poi applicarle al mondo del bar. passare dalle tecniche di cucina tradizionale, come possono essere le riduzioni, l'utilizzo di erbe fresche, l'utilizzo di spezie, l'utilizzo di erbe aromatiche come si usa nella cucina tradizionale, al passaggio della cucina molecolare, cercare di applicarla alle tecniche del bar, è stato un passo brevissimo, perché a quei tempi Adrià faceva strage, ovunque si aprisse un giornale Ferran Adrià era presente, quindi interessarmi alle tecniche molecolari è stato per me una cosa naturale. Sai che io conosco abbastanza bene Ferran Adrià, ama moltissimo i cocktail Ferran Adrià, sì, ma mi è venuta una battuta spiritosa. Lei ha detto prima: questo mondo piatto, io ho portato la cucina molecolare. Lei ha portato infatti la sfericazione alcolica, quindi credo che veramente dal piatto ha portato la sfera. Sì, la sferificazione alcolica è una mia, non mi voglio attribuire nessuna invenzione assolutamente, però è stata un'intuizione. Io, grazie a Dio, ho l'amicizia con una dottoressa che mi coadiuva ogni volta che io intraprendo una strada molecolare, in maniera che possa offrire il massimo della sicurezza per la mia clientela e per quella che avranno i barman che applicheranno le mie tecniche. E applicare la tecnica della sferificazione così come l'aveva fatta Ferran Adrià creava delle sfere che erano abbastanza deboli, non resistevano alle sollecitazioni, non si poteva farne molto grandi, perché l'alcol, lei sa bene, lei mi insegna, tante volte ci siamo sentiti nel suo blog, l'alcol è un solvente, quindi bucava questa pelle di alginato che risultava molto debole. La mia intuizione, grazie all'aiuto anche del mio consulente molecolare, è stata quella di aggiungere dello zucchero in maniera che facesse una specie di airbag tra l'alcol e l'alginato e aumentasse la resistenza di queste bolle e la loro manipolazione in drink e via dicendo. Ma io ora voglio chiedere a Stefano Ninčević, che è ospite con noi, voglio chiedere: ha molti seguaci questa scuola di pensiero di Comini? Comini ha seguito a prescindere da tutto, cioè a prescindere dalla sferificazione alcolica, a prescindere dalla sua grande ricerca nel molecolare. Ha seguito perché è una persona che è stata in grado negli anni di rinnovarsi ogni giorno e poi veramente di inseguire un'avanguardia che non è un'avanguardia così, è la sua avanguardia. Cioè lui fa una ricerca che altri non fanno. Cosa fa lui? Regala delle esperienze indimenticabili. Diciamo che Comini è veramente il Ferran Adrià del cocktail, quindi, secondo me, perché Ferran Adrià nella cucina è proprio questo, è l'avanguardia, non un'avanguardia, l'avanguardia. Sarebbe bello vederli un giorno insieme. Beh, secondo me potrebbe essere anche molto molto interessante. Vediamo di invitarli a Milano, vediamo di invitare Sferran a Milano e fargli fare un incontro, ma rimanga con noi Comini. Io ora voglio andare da Flavio Angiolillo, che è titolare del 1930 locale di Milano. Buongiorno Angiolillo. Buongiorno a tutti, buongiorno a Stefano, buongiorno a Dario, buongiorno a voi. Senta, mi diceva Stefano che il suo è l'unico locale speakeasy appunto a Milano. Vogliamo spiegare ai nostri radioascoltatori, che magari non tutti sanno cos'è un locale speakeasy, cos'è un locale speakeasy? Allora, speakeasy, veramente tutti ci hanno dato questo nome, ma perché semplicemente avevamo nascosto questo bar. Ma l'idea all'inizio era partita più per regalare un'emozione nuova ai nostri clienti, per clienti che ci seguivano da anni, perché abbiamo avuto un piccolo bistro francese all'inizio che è aumentato molto velocemente la clientela, dunque abbiamo dovuto spostarsi poi in qualcosa di più grande. E visto che la gente ci ha seguito e che le cose andavano benissimo, a quel punto abbiamo deciso di aprire questo locale nascosto a Milano. È un locale in cui si può entrare solamente con una tessera e solamente a chi diamo la tessera possono venire da noi. Senta Giolillo, quella era un po' la nostra idea. Senta Giolillo, ci dà qualche esempio di qualche cocktail che fa appunto nel suo locale? Ecco, in tutti i speakeasy del mondo spesso si fanno dei cocktail più del proibizionismo. Noi diciamo che per quello che siamo un po' un nuovo speakeasy, ma perché grazie a una persona che ha lavorato anche tantissimo tempo con Dario Comini possiamo lavorare su dei cocktail un attimino più elaborati, più avanguardisti. Poi mio socio Marco Russo, anche lui si inventa dei cocktail, sono tutte delle emozioni, non sono solamente dei vecchi cocktail. Noi creiamo, abbiamo un'emozione, un esempio, adesso stiamo lavorando su un nuovo cocktail che avrà gusto di risotto alla milanese, che appena lo bevete a base di whisky, e anche a base di whisky è un nostro, è nostra nuova invenzione, lo bevete avete veramente gusto di questo osso buco alla milanese, risotto. Quindi c'è lo sono zafferano. Delle emozioni che noi creiamo intorno. Esattamente. C'è dello zafferano. Ecco, è molto usuale ormai mettere spezie appunto nei cocktail. Sì, sì, questo non siamo noi a averlo inventato, tutti lo fanno già da un po' di tempo. Noi diciamo che quando creiamo un cocktail adesso vogliamo creare un mondo che gira tutto intorno a quello, che vuol dire che non si inventa semplicemente... vediamo che adesso la camomilla va bene, allora lo mettiamo ovunque, no? Cerchiamo di creare tutto un mondo a base di cose nostre. Ci dà anche un altro esempio, oltre a un risotto alla milanese? Non so, la cassola la fate, no? La cassola è un po' dura, immagino. Abbiamo un cocktail che si chiama sushi, che è fatto con una nostra vodka infusa del salmone, una del sake, del lime, della ginger beer, e quando lo bevete avete veramente questo gusto di sushi che vi viene in bocca, anche all'odore intorno, perché il bicchiere è tutto... intorno al bicchiere c'è delle alghe, e dunque quello che permettono di continuare il gusto anche sulle mani. Una cosa molto carina da vedere proprio. Bene, grazie Flavio Angiolillo, grazie, la ringrazio. Titolare 1930 di Milano, appunto cocktail risotto alla milanese. Ma Comini, una cosa veloce perché poi devo passare la linea alla regia. C'è un cocktail suo, quello che secondo lei rappresenta appunto la sua filosofia? E non esiste un cocktail, perché la mia filosofia è in continuo cambiamento. Ah, al momento il cocktail che mi rappresenta penso che sia il Caspita, che è un nuovo tipo di sferificazione, la sferificazione del fumo. Ho racchiuso in una bolla di zucchero del fumo, fumo di tè verde, quindi perfettamente legale anche all'interno di un locale, che aspirato viene servito di fianco a un cocktail affumicato, e aspirato dà la sensazione di una boccata di sigaro cubano. Bene, grazie Comini. Allora uno beve e fuma. Grazie, bellissima anche questa, si risparmia in questa maniera. Il gastronauta. Eccoci di nuovo nel mondo dei cocktail, dei bar nascosti, come avete sentito, e di cocktail sorprendenti. Non mi sarei mai immaginato di sentire parlare di un cocktail risotto alla milanese, ma sicuramente sono le sensazioni, è lo zafferano che influisce su questo tipo di gusto. Ma continuiamo questo nostro viaggio per raccontare questo mondo, e questo mondo è fatto anche di tante attrezzature, di tanti strumenti per fare questo mestiere, vero Stefano? Certo, è fatto da quelli classici che conosciamo, gli shaker, i cobbler, gli spoon, quelli che vediamo ogni giorno nel bar, ed è fatto soprattutto anche di una continua ricerca, no? sui vecchi strumenti da parte anche delle nuove generazioni di barman, e questo è molto interessante. Ma devo dire che ognuno avrà i propri attrezzi personali. Sì. Se li porta dietro quando vanno a fare dimostrazioni, gare. Come per uno chef i coltelli. La stessa cosa. Ebbene, proprio di questo ce ne parla Lucio Tucci, che è un giovane collezionista di antichi ricettari e di barbook. Buongiorno Tucci. Buongiorno, buongiorno. Senta, mi dicono che lei ha una collezione strepitosa su questo, è vero? Sì, sì, sì. In questi anni sono riuscito a collezionarli circa 190 di vecchi ricettari. Sì, sì. Vecchi ricettari, diciamo da che periodo partono questi ricettari? Ma fondamentalmente dal 1862, che è tra virgolette uno dei primi ricettari al mondo. Ricettario scritto da un grande barman che è Jerry Thomas, conosciuto pure come il professore. Ah, ecco, quindi questo nome dice tutto. Ma ci sono molti barman che ancora attingono questi vecchi, diciamo, ricettari, oppure sono un fatto storico? Ma fondamentalmente diciamo che questi vecchi ricettari sono scritti dai padri fondatori dell'arte del bere miscelato, per cui si può dire che si trovano interessantissime tracce al loro interno, come tecniche di miscelazione, attrezzi, come ad arrivare a ricette di cocktail che hanno, tra virgolette, lasciato un'impronta importante nel mondo, nella cultura del bere miscelato. Senta, una domanda forse difficile, però c'è un cocktail che ha lasciato il segno nella storia, cioè quello, diciamo, che è un po', come posso dire, la luce di tutto il settore? Beh, di sicuro il cocktail Martini, di sicuro. Ecco, poi ce ne sono... Sì, sì. Diciamo che c'è, tutti pensano, vero Stefano, tutti pensano quando si dice cocktail martini, pensano che sia l'ingrediente, in realtà non è così. Non è così, no, anzi, diciamo che l'ingrediente principale di questo cocktail è il gin, o nella versione vodka tini con la vodka, ma di fatto l'ingrediente, quello che dà la carica aromatica, è il gin, la tipologia di gin che poi viene a sua volta aromatizzato con vermouth dry. Ma mi sembra che prenda il nome dall'autore, cioè questo signor Martini di Arma di Taggia. Ma il signor Martini di Arma di Taggia, che è una figura tra il vero e il leggendario, comunque si parla sempre di lui quando si fa riferimento al Martini Cocktail, creò questo drink nei primi del Novecento al Knickerbocker Hotel. Si dice che lo intitolò al magnate più famoso dell'epoca, quindi al signor Rockefeller. Comunque poi di questo mi sa che ne approfondiremo con un signore di Londra molto importante, ma io ora voglio continuare questo viaggio tra le varie tendenze, magari Tucci rimanga con noi. Ora andiamo a Gravina in Puglia. Bene, a Gravina in Puglia andiamo dal titolare del Gran Caffè Gambrinus, Tommy Colonna. Bene, e diciamo che questa tendenza secondo me è molto importante, questa diciamo che rappresenta Tommy Colonna. Perché? Perché questo paese, diciamo, in cucina e anche in tanti altri settori ha la peculiarità territoriale. Ebbene, Colonna, è vero che lei, diciamo, segue questa tendenza nel mondo dei cocktail, cioè li prepara con i prodotti del territorio? Certo, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questa bellissima chiamata. Sì, certo, io innanzitutto mi identifico in questo perché ci tengo soprattutto a valorizzare quello che la nostra terra produce, no? Noi siamo in una murgia. La murgia è un altopiano carsico dove ci sono tante varietà di erbe spontanee e non. Tra l'altro quella che più si raccoglie è il Fimo Serpellum, che in vernacolo da noi si chiama Usurpud, per esempio. Ecco, data la passione che c'è per raccogliere queste erbe, nasce il Gariga, che è appunto il nostro ingrediente principale di un cocktail che ho inventato, che è un elisir per aiutare la digestione. Ah beh, questo è molto interessante, perché credo che alla sera, magari verso le 10 e le 11, per riprendere, per durare tutta la notte, sicuramente ci vuole questo cocktail. Ma Colonna, mi lasci una battuta: io della sua terra conosco bene alcune cose, tra cui l'ambagioni. Non mi dica che lo usa in un cocktail l'ambagione. Certo che lo facciamo. Ah sì? Certo, lo facciamo, ed è un cocktail che potrebbe richiamare la terra, no? Perché lì si conosce Uvan Bajul, come sì. Si suol dire. Ecco, lei lo pronuncia alla pugliese, io non ci riesco, insomma. Ok, è un cocktail a sapore terroso, perché è un bulbo che lei sa benissimo che cresce sottoterra, ed è molto buono anche fritto, per esempio. Sì, sì, io lo mangio fritto di solito, quindi... Anche il cardoncello, che è un fungo che nasce sull'Alta Murgia Barese, è tipico, molto tipico e molto buono. Senta, io so che lei partecipa come rappresentante italiano ai più importanti concorsi. Ecco, quando lei si presenta con questi prodotti, qual è la reazione del pubblico? Ma ovviamente questo esce un po' fuori dagli standard, perché sono prodotti veramente di nicchia. Il signore che produce questo amaro veramente raccoglie tutte le erbe che crescono in delle pietre dove c'è un microclima spettacolare a mano, quindi la gente veramente vede l'autenticità. È proprio questo quello che noi vogliamo sottolineare e che porto e cerco di diffondere quando sono in giro per l'Italia o addirittura all'estero: l'autenticità del prodotto, che è quella che a volte si perde un po'. Da Gravina in Puglia ora ci spostiamo a Bologna da Daniele Dalla Pola, barman e titolare del New Lounge appunto di Bologna, che è autore di un libro che dice tutto secondo me, Exotic Cocktails. Buongiorno Dalla Pola. Buongiorno, come stai? Bene, bene, io sto benissimo, ma questi drink esotici vanno ancora molto, specialmente alla sera? Ma sì, assolutamente, ma guarda che sono sempre andati, eh? Ah, sì, scherzo, una battuta, ma ecco, io voglio sapere cosa sono i drink appunto tiki, perché si chiamano in questa maniera? Ma è una cosa tutta americana, diciamo, è nato tutto dopo il proibizionismo, a metà degli anni 30. Praticamente questo personaggio, Don the Beachcomber, un giorno dopo tanti viaggi, dopo aver fatto il giro del mondo due volte, ha recuperato tutte le cose che aveva insomma con sé e ha trovato questo affare in questo hotel bar a McCabe Street a Los Angeles, esattamente. E ha messo queste cose insieme e ha cominciato a fare questo drinking room, perché in quel periodo il room costava poco, visto che era finito il proibizionismo e nessuno non voleva più, voleva bere altro, voleva bere gin, voleva bere whisky e queste cose. Allora lui ha cominciato a miscelare il rum con grande successo, mettendo sciroppini di frutta fresca fatta da lui, succo di agrumi, queste cose, e poi insomma è stato subito un successo, anche perché comunque li faceva abbastanza potenti, la gente aveva voglia di bere e si divertivano. Ma volevo chiederti, ci dai un esempio di un exotic cocktail? Ah, uno dei più famosi sicuramente è il Mai Tai. Poi ce ne sono tantissimi, dai nomi strani. Cosa c'è nel Mai Tai? Cosa c'è dentro? Ah, il Mai Tai ci sono parecchie versioni. La versione originale è poi fu inventata da Trader Vic, che è diciamo il suo concorrente, amico nemico. E nel Mai Tai c'è, nella ricetta originale c'è dello sciroppo d'orzata, c'è del succo di lime fresco, dell'orange curaçao, due tipi di rum. Viene shakerato con ghiaccio tritato, servito in un tumbler doppio e con decorazione menta. Un gusto veramente esotico, particolare. Poi insomma ognuno fa. I Mai Tai poi col tempo sono cambiate le versioni, sono... Quindi c'è un'evoluzione personale del barman, immagino, ogni volta, anche sulle quantità. Sì, ma principalmente perché, come dicevo prima, erano diventati, sul locale era diventato di successo, quindi molti andavano a spiarlo e poi successivamente lo copiavano. Quindi che succedeva? Che il Mai Tai poi veniva a sua volta, probabilmente quando l'ha inventato Trader Vic, lo copiò da un drink che aveva già fatto Don the Beachcomber in precedenza, però a lui non piaceva e non l'aveva messo mai nel menù. Questa è la dichiarazione che ha fatto, in realtà la fece la moglie in un'intervista. Poi comunque per assurdo non gli faceva un drink che poteva chiamarsi Dottor Funk, il locale concorrente l'aveva chiamato Dottor Chen, per esempio, no? Gli ingredienti quelli erano, cambiamo solo i nomi. Quindi c'è anche spionaggio tra i cocktail. Io ringrazio Dalla Pola, Tommy Colonna e Lucio Tucci. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto di cocktail, di barman, di linee di tendenza appunto su questo settore. Ebbene, ora ci colleghiamo con Londra con un signore che è chiamato il maestro, credo che questo dica tutto. Buongiorno a Salvatore Calabrese. Buongiorno, come va? Bene, grazie. Bene, lei è titolare del super esclusivo Salvatore al Playboy di Londra, quindi questo dice tutto, ma ho sentito parlare di lei in termini non entusiastici, qualcosa di più. Addirittura mi raccontano, ma io ci credo, che lei propone la Liquid History, ovvero sia cocktail d'epoca con ingredienti d'epoca, è così? Sì, anzi, l'ultima volta che sono stato in Italia, a Milano, al Super Bar, ho ricreato il Martini del 1900 con degli ingredienti dell'epoca. Senta, come fa a trovarli questi ingredienti dell'epoca? Esiste ancora, quindi, del collezionismo appunto di... Ma diciamo, io sono un collezionista vero, ho avuto questa idea di vendere storie tramite bicchiere 30 anni fa, prima che qualsiasi altro personaggio abbia pensato questo. Sono anche un esperto di cognac, un cavaliere di cognac, ho scritto diversi libri, uno sul cognac come liquid history. Vendo la storia tramite il bicchiere, la mia collezione di spiriti è una delle più rare che esistono al mondo. Il cognac va fino al 1788, pensa all'anno prima della rivoluzione francese o la costituzione americana. George Washington stava diventando il primo presidente degli Stati Uniti. Senta Calabrese, diciamo, per arrivare terra a terra, per bere un cocktail da lei ci vuole un mutuo. Diciamo che l'anno scorso ho battuto il record per il cocktail più costoso al mondo, ma non soltanto il più costoso, ma anche il più vecchio. Cioè, più costoso si può anche riuscirlo a batterlo, però non penso che nessuno mai riuscirebbe ad abbattere l'antichità di questo cocktail. Diciamo che ho messo 733 anni di storia in un bicchiere. Chi ha avuto la fortuna di assaggiarlo? Chi ha avuto la fortuna di gustarlo? 5.500 sterline e diverse persone. Benissimo. Insomma, come dicevo, ci vuole un muto. Ma ho qui con me Stefano Ninčević che mi... Così. Ciao Stefano. Ciao maestro. Tu non hai avuto la fortuna di berlo questo cocktail, Stefano? Io purtroppo no. Ho quasi sfiorato l'assaggio durante appunto l'ultima edizione su di Superbar, che è questa manifestazione in cui Bar Giornale, il giornale per cui scrivo, è stato media partner. Ho avuto appunto quasi la fortuna di assaggiarlo, era arrivato lì, ma a un certo punto qualcuno ha fatto disgraziatamente correre. Non ti preoccupare, quando mi viene a trovare te lo faccio uno. Molto volentieri. Senta Calabrese, ma diciamo che mi sembra che lei faccia cultura, soprattutto cultura, perché questa, mi permetto di dirlo, è cultura del bicchiere, come dice lei, oltre che storia, è veramente cultura. C'è, diciamo, dall'altra parte il consumatore, che diciamo tanti consumatori che apprezzano questo modo di vedere i cocktail. Indubbiamente. Se noi pensiamo oggi come oggi, i baristi e il consumatore stanno sperimentando quello, i classici cocktail stanno ritornando alla forza, no? Diciamo che l'Old Fashion, il Manhattan, il Martini, diversi cocktail che si sono perduti nell'epoca si stanno ritornando nel fascino. Ecco, rimango con noi ancora per qualche minuto, perché abbiamo Francesco Conte, che è barman e titolare dello Shaker Club di Drink and Dream di Aversa, che appunto è rettore per la campagna del Classic Cocktail Club. È così, Conte? Salve, buonasera a tutti. Quindi è un circolo che promuove appunto la valorizzazione delle ricette classiche, il suo? Sì, diciamo che è un club di appassionati, barman e non solo, che promuove il bere classico, quello con le ricette con le quali sono nati i drink classici, i drink storici. Quindi conosce benissimo Salvatore Calabrese, immagino. Mi onoro di salutarlo. Salve maestro. ciao. Piacere di conoscerci a Milano, al Superbar. Questi classici quali sono, Conte? Innanzitutto io sentivo prima il maestro parlare, condivido appieno il ritorno dei grandi classici. Io nel mio locale propongo con gran piacere il Manhattan, il Martini Cocktail, l'Old Fashion, ma anche il Brooklyn, drink che spesso sono preparati anche con qualche ingrediente che è di difficile reperibilità, per esempio ho citato il Brooklyn appunto, che è una variante del Manhattan, preparato con la Merpicon, che è un liquore in disuso, che io ho il piacere di avere ancora una bottiglia, di custodirla, e mi fa piacere così proporlo. Calabrese, ma il suo locale, se fosse stato in Italia, avrebbe avuto uguale successo? Cioè la clientela italiana apprezza quanto quella inglese, oppure... Ma diciamo, io ho avuto tanti clienteli italiani che sono venuti al mio locale e hanno apprezzato di assaggiare la storia. Come si diceva, il classico, c'è il ritorno del classico, però per tanti personaggi possono ricreare i classici con i prodotti di oggi. Io riesco a riprodurre i classici con i prodotti dell'epoca, ed è una vera storia. Cioè, a provare un old fashion fatto con bourbon del 1890 è un'altra storia. Quindi, con l'assaggio di Angostura Bitter del 1900. Ma mi affascina molto questa storia, appunto, di ritrovare queste, diciamo, vecchie bottiglie, perché in fondo sono vecchie bottiglie, quindi un antiquariato del distillato, chiamiamolo così, poi si può parlare in questa maniera. È un museo, il mio è vero e proprio un museo del, è il sogno dei barman, è il sogno mio e il sogno di tanti barman che vengono nel mio locale e veramente incominciano a sognare, e io sogno con loro. Ninčević, ma in Italia c'è nessuno che, diciamo, percorre questa strada appunto di calabrese? Ma io credo che sia molto difficile percorrere questa strada. È molto difficile percorrere questa strada. I prodotti, appunto, diceva prima, le bottiglie sono effettivamente molto costose. L'esperienza di Salvatore Calabrese credo che sia unica al mondo. Non dico che non ci siano collezionisti di bottiglie antiche, anche barman che collezionano bottiglie antiche, ma così come l'ha fatto il maestro Salvatore Calabrese non l'ha fatto nessuno. Appunto, è una cosa che, tra l'altro, è una ricerca che è partita 30 anni fa, sempre a Londra. Beh, c'è un collezionismo sicuramente di whisky, di rum, però un collezionismo fine a se stesso. Non è un collezionismo, diciamo, colto in questa maniera, perché ricrea la storia attraverso i cocktail. Senta Calabrese, ci sono dei libri storici, diciamo, dove lei ha anche ritrovato queste vecchie ricette? Diciamo, io adesso sto per rifare il mio classico cocktail, un libro che ho scritto nel 1997, che ho venduto quasi un milione di copie. All'epoca, quando io ho scritto questo libro, il successo di questo libro è perché parlavo dei nostri sogni, cioè noi parliamo delle ricette, ma dobbiamo anche parlare dei creatori, i grandi creatori che sono riusciti a creare questi, come dice, work of art, come si dice, questi pezzi d'arte. Oggi ci sono tanti, grazie alla web si riescono a trovare questi libri storici. Io ho una grande collezione in me stesso. Bene, abbiamo avuto il maestro, sono felicissimo di averla ascoltata. Ringrazio anche Francesco Conte e Stefano Ninčević. Io ringrazio Margherita Ina in redazione, Franco Piantanida in assistenza e Valeria in regia. Ricordo che sul sito Il Gastronauta, www.ilgastronauta, è in funzione il sondaggio sul miglior ristorante d'Italia, diciamo votato dai consumatori e non più dai critici. Quindi vi saluto, vi auguro un buon weekend e tanti cocktail magari in queste serate dei prossimi giorni. Un caro saluto da Davide Paolini.